Sono al Liceo Modugno e insieme ad altre ragazze della squadra universitaria di Bologna partecipiamo per il terzo anno consecutivo ai mondiali antirazzisti. Siamo molto numerosi, quest'anno almeno 15 credo. In generale ci siamo conosciute appunto al CUSB, che è il centro universitario sportivo di Bologna. Poi il gruppo si è allargato sempre più. Ai mondiali ci divertiamo sempre tantissimo, è un momento bellissimo di aggregazione e di condivisione e quindi ci teniamo tantissimo a essere presenti. Ogni anno con un nome diverso per cercare di trovare sempre una cosa più divertente, però siamo sempre noi. Perché aver deciso di partecipare ai mondiali antirazzisti? Perché sicuramente i valori dell'antirazzismo e dell'antisessismo li sentiamo fortissimi in Sì. tutte noi e riteniamo che sia importante partecipare a manifestazioni, a festival come Esatto. questi, che veramente aiutano l'integrazione e attraverso lo sport riesce ad arrivare a un obiettivo più, magari più grande, più complesso da raggiungere nella vita quotidiana. Lo sport unisce tutti. Per te, pensi che i mondiali antirazzisti possono lottare per il razzismo o anche il sessismo che si parla sempre? Sì, assolutamente. Io penso che quest'anno soprattutto ci sono, credo, 170 e più squadre, e quindi vuol dire che cioè, questa manifestazione è sempre più partecipata, sempre più persone sentono il bisogno di combattere il razzismo e l'omofobia o il sessismo, e quindi è importantissimo partecipare e divertirsi anche. Qual è la sua messaggio che potrai lasciare alle altre squadre che partecipano e altre persone che vengono a partecipare ai mondiali antirazzisti? Di condividere lo spirito dei mondiali e quindi di non venire qua pensando che sia un torneo da vincere, ma la vera vittoria è quella di conoscere le Appunto. persone, di fare amicizia, di integrarsi appunto e non di vincere un trofeo perché non è questo lo spirito giusto. Quindi l'unica cosa che mi sento di dire è appunto divertitevi, partecipate e non pensate soltanto a vincere. Grazie mille.